Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Di Irene Zerbini. Questa mattina sono commossa. Veramente un fine settimana eccezionale. Quando hai di fronte ragazzi di 13 anni, di 14 anni, sono qui in studio. Buongiorno. Ciao. Ciao. Sono colleghi, lavorano in radio, anzi una radio eccezionale, si trova in tutto il mondo, Radio Immaginaria. Parleremo con loro tra pochissimo di questa iniziativa, ma tutta la trasmissione sarà declinata sul futuro. Sul futuro, perché parleremo di università. Partiremo da una cifra che spesso vi sentite rimpallare, vale a dire quella degli italiani che al termine del corso di studi lasciano l'Italia. Il brain drain, la fuga di cervelli. Sì, ma prima cosa succede? È vero, esportiamo 110.000 persone laureate, in gran parte almeno laureate ogni anno, reclutati in progetti di ricerca all'estero o semplicemente ricerca di realizzazione personale. Ma prima, mentre si stanno formando, come li sosteniamo? Borse di studio e università. Faremo un giro intorno al mondo grazie alla presenza dell'OCSE nel corso della nostra trasmissione per capire, per fare un paragone rispetto al costo e delle tasse universitarie e della vita e quanto l'Italia fa veramente per sostenere poi questa formazione in comparazione per esempio con la Francia o con la Norvegia o con la Finlandia, per citare nazioni più vicino a noi, ma ci sono anche Stati Uniti, Canada, Australia. Insomma, sarà un tema che affronteremo nell'ultima parte di questa Spunti di Vista. E prima ancora, reddito di cittadinanza o reddito di inclusione, argina davvero la povertà una misura di questo genere? Prima che l'Italia si spacchi sui dibattiti su ciò che sarà, su ciò che dovrebbe essere, su ciò che decideranno verrà intrapreso, noi abbiamo deciso di mettere un attimo, un'altra volta, il naso fuori dalla finestra e vedere cosa succede per esempio in Svezia, in Danimarca, in Germania. Ha arginato la povertà là nei paesi dove è stato introdotto da qualche anno. Tutto questo tra poco, prima però torniamo al nostro futuro, inteso non dal punto di vista normativo dell'università, ma è qui di fronte, in carne e ossa, di fronte a me. Sono felicissima di avere i ragazzi di Radio Immaginaria. Innanzitutto lo chiedo a te, Chiara, questa Radio Immaginaria che cos'è? Allora, Radio Immaginaria è l'unica radio web di adolescenti creata e gestita da noi, cioè noi scegliamo gli argomenti, ne parliamo, scegliamo la musica e ci divertiamo parlandone. Siamo anche in 10 davanti a un microfono. Siamo dagli 11 ai 17 anni. Tu per esempio quanti ne hai? Io ne ho 13. Quindi scusa, hai finito la terza media, immagino. Sì. Ma quanti siete in tutto il mondo? Eh beh, saremo in più di 200. 200. Beh, tutto ciò è meraviglioso, ma li sentiamo? Ascoltiamo un po' di questa radio, una radio che lancia la radio, non succede quasi mai, ma qui vale proprio la pena. Oh, bel! C'è Radio Immaginaria. 3, 2, 1, siamo in onda! Funziona così, noi scegliamo gli argomenti, ci ritroviamo, parliamo di quello che ci pare e parliamo anche in 10 davanti a un microfono. Chiunque può dire la sua. Facciamo quello che vogliamo e gli adulti non si intromettono. Con queste e questo. Radio Immaginaria! Se qualcosa ci appassiona non deve occupar tempo. Siamo in tutta Italia, verso l'infinito e oltre! Beh, avete un senso del ritmo davvero invidiabile. Matteo, tra l'altro, oltre a questa già più che meritoria, complessa e molto professionale iniziativa, perché la cosa meravigliosa di questa radio web è che è fatta veramente con tutti i crismi del tempo, del ritmo, della regia, avete avuto degli istruttori, vi siete formati da solo, come avete appreso tutto quanto? Allora, abbiamo tutti conosciuto la radio in modi diversi, agli eventi, tramite le pagine dei social, e poi alla fine abbiamo imparato da soli, nel senso che ci ritroviamo una volta a settimana e facciamo puntate, e da lì poi si impara quello che facciamo. E questa voce, notatelo, ha quanti anni? 16. 16 anni. E poi farete questa Teen Parade. Esatto. È un'iniziativa eccezionale, lasciate spiegarla, perché riguarda il mondo del lavoro. Sì, esatto. Teen Parade è il lavoro spiegato dagli adolescenti, sarà la nostra manifestazione che faremo il 10 11 settembre, un evento che sarà assolutamente una figata, perché diciamo, cioè, il lavoro ce lo sentiamo sempre dire come qualcosa di pesante, che mette ansia, che ci ci stressa ogni giorno e quindi noi vogliamo raccontarlo con gioia, con, cioè, perché il futuro è nostro, sì, quindi... io mi aspetto da un sedicenne un racconto con gioia. Matteo, intanto grazie, ma tra pochissimo rimani con noi perché voglio farti spiegare meglio questa Teen Parade. Ci fermiamo per un attimo e torniamo insieme tra pochissimo. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Ancora un saluto da Irene Zerbini, veramente immaginazione anche nel nome di questo progetto Radio Immaginaria, l'unica radio fatta da adolescenti, ragazzi. Ne abbiamo due in studio e ne abbiamo tantissimi oltre il vetro della regia, sono tutti chiaramente minorenni dai 14 ai 17 anni, l'unica radio web è fatta interamente da loro. E sentiamo ancora uno stralcio del loro lavoro. Adolescenti dipendenti che cercano pace, adolescenti tutti dipendenti, dai, mi piace. Vogliamo far vedere che abbiamo anche noi un'opinione e che la nostra opinione vale. E anche questa l'abbiamo centrata. Fatta, è nostra, non si tocca più. Le faremo sapere. Cos'era questo le faremo sapere? Una vendetta verso il mondo dei grandi? Sì, è diventato un po' il nostro inno, perché quando vai a un colloquio e ti senti dire sempre questa frase. Le faremo sapere, bravi, anche molto ironici. E dicevamo, Matteo, parlerete proprio del mondo del lavoro in questa iniziativa. Non abbiamo detto dove si svolgerà e quando si svolgerà questa Teen Parade, importantissimo, ricordiamo. 10-11 settembre a Castelguelfo di Bologna, tantissimi ospiti ci verranno a parlare con noi, persone che hanno avuto successo nel mondo del lavoro. Ci saranno questi Case Cubes, che sono dei garage, perché se ci pensiamo bene, obiettivamente tutto è nato da dei garage. Pensiamo a Google, pensiamo a Instagram, a Apple, tutte quelle multinazionali che hanno tantissimo successo. Anche la musica rock, anche tanti. Ci saranno tantissimi artisti, daremo spazio a persone che hanno sempre suonato nella loro cameretta e non hanno mai avuto occasione di far sapere che cosa fanno. Brevemente mi dici alcuni dei Case Cubes? Sì, verranno dei produttori di droni che faranno delle gare con questi aggeggi volanti, anche io devo ancora capire bene. Poi ci sarà una fotografa, verrà a parlare con noi Smemoranda, che presenta i diari che vedremo poi tutti a scuola. Ci saranno tantissime aziende che verranno ad esporci le loro idee. E mille musicisti che suoneranno tutti insieme la storia della rock. Ci saranno anche loro, ci sarà Fabio Zaffagnini, che è il coordinatore di questo progetto. E volendo cercarvi, perché ormai vi siete fatti molti fan, Radio Immaginaria, dove vi troviamo? Allora, noi siamo su tutti i social, siamo su Facebook, Instagram, abbiamo una pagina su Spreaker dove carichiamo le nostre puntate. Poi se un ragazzino ci sente curioso e ci si vuole iscrivere comunque alla radio, può scriverci alla nostra email radioimmaginaria@gmail.com e invece il nostro sito radioimmaginaria www.radioimmaginaria.it. Beh, è stato veramente molto interessante avervi, perché non solo vi ascolteremo ma impareremo tanto da voi. Per una volta invertiamo i ruoli. Per esempio, quella pernacchia lì, chi era l'autore? Un ragazzo di Bologna. Ah, ecco, quindi non è riproducibile in studio, l'ho scampata almeno il bis. Grazie a Chiara e Matteo oggi su Radio 24, una radio che ospita la radio. Cambiamo pagina ora, perché dobbiamo assolutamente soffermarci su un tema che riguarda sì il futuro, ma che potrebbe arginare molti dei problemi del presente, o almeno è uno strumento efficace per farlo. Questo è qualcosa che va stabilito anche guardando a quello che già si fa fuori, quello che già viene fatto all'estero. Io sto parlando di reddito di cittadinanza. Diciamo che da reddito di inclusione a reddito di cittadinanza ci sono delle differenze che spesso non sono semplicemente e solo verbali, ma stanno a indicare una modalità di erogazione, una modalità di controllo sull'erogazione che poi è sostanziale. E quindi prima lo annunciavamo in apertura di trasmissione, di scatenarci in Italia, strappandoci le vesti, su quale sia la soluzione migliore, ci siamo detti a spunti di vista. Ma vediamo un po' cosa fanno gli altri, che risultati hanno ottenuto. Chiaramente in tutto il mondo non possiamo andare, ci limitiamo ad alcuni casi e nazioni particolarmente significativi. Grazie per il suo tempo, buongiorno e benvenuto Alessandro Martinello. Dottore, buongiorno. Buongiorno a tutti. So che la sto un po' disturbando, visto che lei si trova a Boston, il fuso orario non è proprio dei migliori, ma Alessandro Martinello non ci parlerà di Stati Uniti, è un ricercatore all'Università di Lund in Svezia, ha una grande esperienza di welfare, perché proprio su questo è specializzato, non solo in Svezia ma anche in Danimarca. Allora io comincerei con qualche caratteristica su cui credo sia il caso di soffermarsi a proposito dei modelli scandinavi. Dottor Martinello, è un reddito di cittadinanza vero e proprio quello che si applica per esempio in Scandinavia? Sì, questa è un'ottima precisazione da fare. Il reddito di cittadinanza in senso stretto non esiste. In alcuni paesi esistono programmi di reddito minimo garantito, più o meno incondizionato. La Danimarca e la Svezia non sono tra questi. Hanno un sistema di assistenza sociale, ma soggetto a regole ben definite, e accedervi dipende da una serie di condizioni. Quindi, per dare un esempio, se io, prendo me come esempio, domani dovessi venire licenziato e diventare disoccupato, non avrei diritto ad accedere a questi a questo programma di assistenza sociale. E invece chi avrebbe, chi avrebbe diritto? Mi scusi, dottor Martinello. Ci sono le condizioni particolari, quindi per esempio viene richiesta in Danimarca, viene la richiesta di residenza per 7 anni, di cui 2 e mezzo lavorativi, ma a parte questi dettagli, un requisito più importante è sulla ricchezza patrimoniale. Quindi per accedere a questo particolare livello di assistenza sociale non vi si può accedere se si ha una ricchezza, conto in banca, terreni, proprietà, immobiliari, qualsiasi cosa, superiore a una cifra corrispondente a circa 1.350 euro. E lei ci ha dato una precisazione molto importante. Non solo bisogna trovarsi in uno stato, diciamo così, di assenza di reddito, ma anche di assenza di possedimenti, se vogliamo semplificare quello che lei ha definito come gruppo, casa o terreni. Per essere eleggibili bisogna anche avere 0 sul conto in banca, giusto? Esatto, meno di queste 10.000 corone, più o meno 1.300 euro in conto in banca o in qualsiasi tipo di proprietà. E questo dà diritto all'erogazione dell'assegno che lei ci ha nominato. Ma per fare un paragone, perché altrimenti non ci capiamo, il costo della vita in Danimarca, non lo so, un appartamento, lei ci stava parlando dei paesi scandinavi, c'è differenza, lei di quale nazione in particolare ci ha raccontato fino ad ora? Finora ho raccontato della Danimarca. Il sistema svedese è molto simile, sono più esperto sul sistema danese, ma il sistema svedese è molto molto simile. Anche nel sistema svedese c'è questo requisito di patrimonio. Il costo della vita, in Danimarca un paniere medio, per un paniere rappresentativo, è un 37% più caro, 57% in Svezia, ma questo 57% costo della vita, in Svezia. Attenzione, perché poi quando si sente l'ammontare degli assegni è giusto anche avere un termine di paragone. Per esempio, se parliamo di beni d'uso comune, un litro di latte, quanto lo pago in Svezia? Un litro di latte serve, faccio che ci penso, in Svezia non l'ho mai comprato, ma sarà un 3-4 euro comunque. Certo, quindi paragonato ai nostri dall'80 centesimi a 1,20 euro, questo fa una grossa differenza. Allora le chiedo, un appartamento in affitto in città, un bilocale, a quanto può ammontare un affitto? Quello che volevo anche sottolineare è che questo 37% e questo 57% in realtà nascondono delle diseguaglianze molto molto grandi all'interno dei paesi, soprattutto in Danimarca, nel senso che a Copenaghen, nelle città più grandi, si parla di un prezzo di affitto medio di 19-20 euro a metro quadro, quindi un appartamento di 50 metri quadri è sicuramente sopra i 900 euro. Nelle zone non periferiche si parla di sicuramente 1.200-1.300 euro. nella campagna, diciamo nell'Holland o nelle periferie della Danimarca, questi prezzi sono molto molto più bassi, quindi questo è anche da sottolineare per come questi assegni abbiano un potere d'acquisto molto diversi a Copenaghen piuttosto che nella campagna danese. È molto chiaro ed è una realtà ormai diffusa un po' in tutta Europa, questa sì. Disparità di costi e conseguentemente anche di potere d'acquisto di un assegno o di un salario che abbia lo stesso ammontare. Adesso la invito a rimanere con noi perché ci spostiamo sempre fuori dall'Italia, però in Germania, dove abbiamo Samantha Berruti, che ringrazio per il suo tempo. Dottoressa Berruti, buongiorno e benvenuta. Grazie a voi. Grazie. Samantha Berruti sta svolgendo un dottorato a Jena e ha in qualche modo raccolto da amici, conoscenti e persone che vivono nella e con la realtà del reddito di cittadinanza le loro esperienze per noi, per raccontarcele in italiano. In Germania come funziona brevemente, dottoressa Berruti? Funziona che in casi appunto di lavori che non sono sufficientemente retribuiti oppure in caso di appunto indigenza, quindi mancanza di lavoro, c'è la possibilità di fare domanda per un cosiddetto sussidio sociale che è stato inserito dal 2002 da una commissione guidata appunto da Peter Hartz, che dà il nome appunto a questo sussidio che si chiama Hartz 4. Se è tradotto in italiano a cosa equivale? Equivale a un assegno, un sussidio che non solo copre le spese appunto di affitto, di riscaldamento e di assicurazione sanitaria, ma può arrivare a corrispondere a circa 380 euro per persona del nucleo familiare. Si calcolano circa 300-350 euro per adulti e fino ai 280 per i bambini. E queste sono quindi già cifre molto importanti e impegnative. Sì. Vedremo tra pochissimo insieme a cosa sono servite e se veramente hanno colto nel segno che si erano prefisse, cioè combattere, arginare la povertà. Questa è spunti di vista, stiamo parlando di reddito di cittadinanza fuori dall'Italia, quelli che già ce l'hanno, come funziona. E torniamo ad affrontare questo tema tra qualche minuto. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. E ancora un saluto da Irene Zerbini. Avete sentito, in Danimarca l'assegno è piuttosto consistente. Certo, va paragonato, come ci sta raccontando il nostro ricercatore sul welfare, al costo della vita. E abbiamo sentito anche come in Germania il sistema sia in qualche modo articolato, nel senso che oltre al sussidio per il sostentamento c'è poi un sussidio per l'affitto, uno per il riscaldamento, che viene elargito a parte, come ci sono poi ovviamente indennità integrative per i disabili che non fanno cumulo. E poi ci sono anche degli assegni per le donne in gravidanza, questo sempre in Germania. È molto interessante come il reddito di cittadinanza in Olanda invece sia una somma garantita a tutti dallo Stato senza obbligo di lavoro in alcuni casi, perché si intende sussidiare anche l'artista. Gli artisti o persone che non abbiano un'occupazione di tipo materiale, diciamo, sono considerati una ricchezza che fa va a alimentare una sorta di biodiversità di quelli che sono settori che possono diventare comunque competitivi per il paese. Questo solo per dare un assaggio, poi chiaramente ci sarebbe da approfondire, sarebbe molto interessante per ore e ore quello che si fa altrove, soprattutto cosa ha funzionato. Ma apriamo adesso un altro capitolo con i nostri ospiti, Alessandro Martinello e la nostra ricercatrice che vive in Germania. Come funziona il dimostrare attivamente, questo è un requisito diffuso, che si è alla ricerca del lavoro? Cioè, come lo si può dimostrare? È richiesto questa dimostrazione da parte del beneficiario del reddito di cittadinanza? Sì, sostanzialmente per questo assegno di welfare viene elargito a condizione che il beneficiario si presenti in un centro di collocamento una o due volte alla settimana, come concordato con l'assistente sociale assegnato, e in questi giorni bisogna dimostrare di stare attivamente cercando lavoro, lavoro, di essere impegnato per cercare di risolvere questa situazione, se sempre a discrezione dell'assistente sociale assegnato. Quindi se una persona viene reputata abile deve effettivamente dimostrare, portando le domande di lavoro che ha inviato al centro di collocamento. Quindi questo deve essere dimostrato. E quindi viene analizzato caso per caso, cioè non c'è un requisito che si limita a un espletamento di tipo burocratico online. Ogni caso viene giudicato, valutato da una persona in carne e ossa, da un assistente sociale. Esatto, assegnato singolarmente. Volevo anche aprire una parentesi sul discorso del potere d'acquisto che mi sono dimenticato di fare prima. Si parlano sì di assegni di 1.440 euro, sono lordi comunque questi assegni e corrispondono a un part time di 13 ore settimanali come cassiere al supermercato. Questo era più o meno per dare un termine di paragone. In ogni caso, ritornando al discorso di prima, è molto importante quello che lei ha sottolineato, quindi 1.480 sì. euro sono l'equivalente di un lavoro che qui in Italia incasserebbe decisamente meno per 13 ore part time. Esatto. Per il tipo di mansione che lei ci ha citato, i salari variano, è ovvio, ma non siamo in quella fascia. Mi dica, sì, Martinello, esatto. Concludiamo. Sì, appunto, questo assegno e la durata per cui questo assegno viene garantito è condizionato a una valutazione positiva da parte dell'assistenza sociale, che deve dimostrare, quindi viene dimostrato a questo assistente che c'è un impegno per uscire da questo problema di disoccupazione. Se questo non fosse possibile, se non fosse possibile trovare un lavoro, si passa a del workfare obbligatorio, quindi viene richiesto un 225 ore annuali di lavoro per la società, pulire la strada, spalare la neve, quello che possa essere, sempre a discrezione della assistente sociale assegnato. Questo è molto interessante. Vediamo in Germania invece come va. Samantha Berruti, come si prova il fatto di essere alla ricerca di un lavoro? Una volta appunto ottenuto questo sussidio sociale, ad ogni persona viene assegnato una sorta di tutor che segue questa persona per tutto il periodo che rimarrà sotto la tutela del Job Center, che si occupa appunto di questi assegni. Questa persona dovrebbe aiutare appunto il soggetto a trovare un lavoro non sempre automaticamente idoneo al profilo professionale, ma si tratta comunque sia della possibilità di ottenere un lavoro e di tutta una serie di colloqui che avvengono circa ogni mese e mezzo, in cui non si valuta solo appunto che lavoro si è ricercato, se si sono fatte domande, si portano appunto magari le copie dei curriculum vitae, eccetera, ma vi è anche un controllo del livello di lingua, soprattutto se si tratta di stranieri, e si valuta magari anche la possibilità di fare dei corsi di formazione, dei corsi di integrazione appunto per gli stranieri, o di fare domanda per le cosiddette Ausbildung, che corrispondono un pochettino al nostro tirocinio. E di conseguenza, quando si è stranieri si devono seguire questi corsi di lingua, per esempio, proprio perché si diventi sempre di più una risorsa per la società, per evitare la marginalizzazione. E ci chiediamo, perché questa è la domanda di fondo, ha funzionato nei paesi dove voi vi siete trasferiti, dove abitate, dove osservate tutte queste realtà, o perché siete specializzati nel welfare, o perché semplicemente vivete fianco a fianco con i tedeschi? Secondo voi ha colto nel segno, ha arginato la povertà, l'adozione di misure di questo tipo? Comincio dalla Germania, Samantha Berruti. Sicuramente si tratta di una sorta di cuscinetto che va anche a coprire delle frange di persone che una volta non erano toccate dai sussidi. Persone che magari attendono la pensione, o è anche il caso di studenti che terminano il percorso di studi, ottengono la laurea ma non entrano immediatamente nel mondo del lavoro, quindi ci sono magari questi 2 o 3 mesi in cui la persona viene comunque aiutata, ottiene i soldi per l'affitto, l'assicurazione sanitaria, via discorrendo, e in questi 2 o 3 mesi si mette alla ricerca attiva di un lavoro subito conseguente appunto alla laurea. Quindi dal suo osservatorio, questo ha arginato la povertà? Sicuramente non l'ha potuta risolvere, ma è, come ho già detto, si tratta comunque sia di una manovra che ha avuto i suoi effetti positivi. Poi ovviamente, come in tutte le cose, ci sono i detrattori, però per le esperienze che ho io e per le testimonianze che ho potuto raccogliere è comunque un'ottima cosa. Grazie, grazie a Samantha Berruti che ci ha parlato dalla Germania e della Germania. Per quel che riguarda invece il modello scandinavo, Danimarca e Svezia, Alessandro Martinello, le rivolgo lo stesso interrogativo. Chiaramente è la nostra opinione, la nostra osservazione, ma lei è anche un ricercatore e ha colto nel segno la presenza di questa misura, l'esistenza di questa misura? Ma sicuramente allevia o comunque aiuta la povertà temporanea, però appunto come sottolineato in precedenza non sono cifre tali da garantire uno standard di vita elevato, soprattutto nelle grandi città. Quello che succede quindi è che nel breve periodo la povertà viene sicuramente alleviata, ma persone che che ricevono questi assegni tendono a trasferirsi nelle periferie del paese dove il tasso di disoccupazione è molto più alto, quindi effettivamente si creano dei rischi di disoccupazione a lungo termine, quindi potrebbe essere che ci siano degli effetti negativi a lungo termine. Sicuramente però si allevia la povertà immediata e si allevia la povertà assoluta, quindi il tasso di povertà in Danimarca e in Svezia è effettivamente molto minore del tasso di povertà per esempio in Italia. Grazie Alessandro Martinello. Proprio in Italia noi vogliamo andare adesso, perché è vero, non esiste a livello statale, ma ci sono delle realtà in cui i comuni sono corsi ai ripari e l'hanno adottato in qualche modo, un reddito di cittadinanza. È il caso di Livorno, dove abbiamo il nostro ascoltatore Stefano Boggi. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi da Radio 24. Buongiorno Stefano, quanti anni ha lei? Io ho 44 anni. Lei è entrato in questa sorta di classifica che il comune di Livorno ha allestito, e per cui per 100 persone c'è una sorta di reddito di cittadinanza affiancato però dall'impiego in lavori utili. Però ora questa cosa qui di reddito di cittadinanza, in breve sto spiegando la situazione, sì, è una cosa in fase di sperimentazione. Allora erano partiti con 100 domande, più di 100 domande che tramite la mia assistente sociale si è fatto la domanda a dicembre del 2015, poi le cose sono state slittate perché nei tempi come sono ora ci sono varie famiglie come me e anche peggio, sono disagiate, che hanno figlioli, che vanno a scuola. E questo volevo chiederle, Stefano, lei ha 44 anni, sì, e convive con sì, Claudia? Io convivo dalla bellezza di 21 anni. Congratulazioni, e ha un figlio. È un figlio di 15 anni che sta già facendo il secondo anno all'Istituto Orlando Elettronica Meccanica. E quanto prende lei dal comune adesso che ha questo reddito? Allora, io prendo questo di per 6 mesi, sono 500 euro. Praticamente per noi questo è volontario, cioè loro ci danno queste 500 euro che noi due volte a settimana ricopriamo facendo volontariato di 8 ore in 2 giorni a settimana. Ma lei perché non poteva avere un sussidio di disoccupazione vero e proprio? Allora, perché io gli spiego, fino a poco tempo fa, fino al 2004, lavoravo in un cantiere navale qui a Livorno, cioè facendo vari lavoretti, ho il contratto part time 3 mesi con una ditta, la Benetti di Viareggio, poi non hanno rinnovato il contratto e non mi spettava il costo di disoccupazione perché dovevo fare massimo 6 mesi. Ho capito, e quindi insomma rientrava in quei casi non coperti dai sussidi di disoccupazione. Le chiedo proprio in 10 secondi, con questi 500 euro che ci ha nominato, cosa ci fa la sua famiglia? Allora, io con le 500 euro, essendo che la mia moglie ha vari problemi di salute, essendo che è diabetica, e poi luce, acqua, affitto, che sono case popolari, poi i libri del mio figliolo che studia già sono partiti 300 euro, e io se avevo il lavoro come avevo prima forse beh non male ci arrivavo. Essendo che ho perso il lavoro mi arrangio a fare lavori saltuari e ringrazio Dio che sono rientrato fra queste 100 persone, perché ho avuto un punteggio di ero 83esimo nella lista con 53 punti, e mi auguro per me e per quelli che sono rimasti al di fuori del coso che questa cosa di reddito di cittadinanza, che ora è in fase, ripeto, di sperimentazione, possa consolidarsi. Ecco. Grazie. Passato. Stefano, sappiamo non è facile parlare di tutta una propria situazione personale alla radio, quindi grazie per averlo fatto con noi e le esprimiamo vicinanza naturalmente anche per la sua compagna. Ci fermiamo con questo aspetto, questo capitolo sul reddito di cittadinanza. Abbiamo portato diverse testimonianze, poi il dibattito seguirà naturalmente nei mesi a venire. Tra poco andremo nel mondo delle università. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Abbiamo parlato delle 110.000 persone, in gran parte laureati, che ogni anno lasciano l'Italia. E abbiamo detto, attenzione però, questo è noto, ma forse un po' meno noto, che le problematiche economiche cominciano già dal percorso universitario, ancora prima che si arrivi alla laurea. Tant'è che in Europa esistono delle borse di studio. L'Italia, rispetto al sostegno dei percorsi di studio di tipo accademico, come è messo, ci siamo chieste? E cosa facciamo? Quanto costiamo? Quanto sosteniamo i nostri studenti e quanto potremmo farlo? E per rispondere a tutti questi interrogativi abbiamo scomodato un analista dell'OCSE, Francesca Borgonovi. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. E cominciamo con la prima domanda, naturalmente. Dal punto di vista delle borse di studio, in Italia il costo medio di un anno di studio universitario, certo la media non descrive le singole realtà, ma più o meno in quanto è stato quantificato? Allora, se parliamo delle tasse scolastiche, per quel che riguarda un percorso universitario, in Italia si vanno a spendere cifre che sono sui $1,600 calcolati utilizzando una parità di costo della vita. Quindi voi, per avere dei sistemi che dentro l'OCSE fossero omogenei e di paragone, esatto, avete utilizzato il dollaro in questo caso. Quindi più o meno $1,600 solo di tasse, stiamo dicendo? Esatto, dollaro pesato per costo della vita, che si va a differenziare in vari paesi. Per dare un'idea di quanto questo si rapporta ad altri paesi dell'area OCSE, in Inghilterra o negli Stati Uniti parliamo di quasi $9,000 standardizzati. Ed è una stima ancora ottimista. Quanti studenti in Italia, o che percentuale di studenti, riceve un sostegno? In realtà, appunto, una delle grosse differenze è, sì, in Italia si va a spendere molto di meno che negli Stati Uniti o in Inghilterra, tuttavia solo circa il 20% degli studenti riceve borse di studio o prestiti agevolati. Questo, se lo andiamo a paragonare a un sistema come l'Inghilterra o gli Stati Uniti, è molto diverso. In Inghilterra circa il 92% degli studenti riceve borse di studio o prestiti agevolati e negli Stati Uniti l'85%. Andando a pensare invece a paesi molto più vicini a noi come la Francia o il Belgio, andiamo a vedere che in Francia il costo per anno universitario in termini di tasse è di soli $215 standardizzati. Tuttavia il 35% degli studenti riceve borse di studio o prestiti agevolati. Ancora andando a pensare a una situazione ancora più favorevole per gli studenti, Finlandia o Norvegia, le tasse non incidono sul budget familiare dello studente, sono zero, ma in Finlandia il 52% degli studenti, in Norvegia addirittura l'80% riceve borse di studio o prestiti agevolati per coprire il costo della vita. Esattamente. Chiaro, perché non si dà per scontato che a mantenere lo studente, che comunque è un giovane adulto, non è un ragazzo come qui fino a 38 anni, no? Ci definiamo sempre ragazzi, non sia necessariamente la famiglia. In Italia cosa funziona? Questo familismo diffuso che da una parte aiuta, senza dubbio costituisce una rete sociale, ma dall'altra scoraggia la richiesta netta per forme di sostegno che diano poi una dignità individuale alla persona ormai formata. Ludovica, buongiorno, hai 20 anni. Ciao a tutti, sì, io ho 20 anni, quindi sono proprio mi sento molto vicina a quello che state dicendo, perché ho appena finito il primo anno di università. E ti senti descritta in una situazione di giovane adulto, preferisci essere considerata sempre una ragazza dipendente dai genitori? Ma mi piacerebbe molto essere più indipendente dalla mia famiglia, però mi rendo conto che purtroppo non avendo ancora un lavoro e studiando devo dipendere dai miei genitori ancora, cioè per qualsiasi tipo di spesa. Cioè pensa che se fossimo in Norvegia, per esempio, in Finlandia, tu pur studiando anche non avessi nulla da pagare come tassa universitaria, avresti diritto a un... a quanto, Francesca Borgonovi? A una, un assegno che consente... Sì, varia poi a seconda anche delle disponibilità economiche della famiglia, varia a seconda del percorso di studio, a seconda della città dove uno studente va a studiare, perché chiaramente il costo della vita in alcuni centri universitari è molto più elevato rispetto ad altri. Ha un assegno che ti permetterebbe comunque di non chiedere nulla a casa. Volevo sapere, non solo dalla tua esperienza, ma naturalmente anche da quello che osservi intorno a te, quanto incide questa mancanza di sostegno su quelle che poi sono le scelte finali di voi giovani? Allora, incide moltissimo. Io mi sono trovata, cioè esattamente un anno fa, a dover scegliere non solo l'università, il corso che volevo frequentare, ma anche la città, perché io sono di Cremona, che è una città piccola di provincia, quindi l'offerta sul piano universitario non è vastissima. E la principale città che viene in mente da Cremona è Milano. Milano ha però i suoi costi e soprattutto anche se volessi scegliere un'università privata che già richiede certe spese durante l'anno, c'è anche da considerare il fatto di prendere un appartamento, anche se condiviso, le spese dei viaggi, comunque dei treni, e poi un particolare che magari sfugge, anche città che offrono più divertimento, quindi ci sta la sera magari l'aperitivo con gli amici, sono tutte cose da considerare e dispiace poi dover chiedere ai genitori sempre di mantenere le proprie spese. O rinchiudersi in casa. O rinchiudersi in casa, esatto. Mentre gli altri fanno l'aperitivo, ho capito anche questo concetto. E quindi cosa hai deciso? Allora, io ero indecisa, volevo fare lingue e mi sono trovata a scegliere tra Verona, che aveva questo corso che a me interessava molto, che è quello che frequento adesso, che si chiama Lingue e Culture per l'Editoria, oppure avevo pensato allo IUM qua a Milano, che è privato, il corso di interpretariato, che è molto buono. Nel momento in cui però mi sono trovata a scegliere, nonostante i miei genitori mi avessero detto, cioè, se vuoi fare una scuola privata siamo disposti ad aiutarti, io comunque ho preferito scegliere una città più piccola con delle spese minori, anche perché ho pensato che non sono figlia unica, ho un fratello e una sorella più piccoli, quindi che penso vorranno anche loro intraprendere comunque degli studi dopo le superiori, di responsabilità è molto bello, molto delicato, ancora una volta la grandezza dei giovani ogni volta che prendono la parola, anche quello che ha espresso Ludovica, grazie. E ha illustrato una situazione che va a toccare Ludovica, questa è la mancanza di sostegno, ma soprattutto che incide su dei segmenti di popolazione scolastica particolarmente fragili in Italia, Francesca Borgonovi. Sì, esatto, esiste il diritto allo studio, il diritto all'istruzione, però in realtà il riconoscimento del fatto che l'istruzione è un mezzo di ascensione sociale, tuttavia quando ci ritroviamo con un sistema che inevitabilmente richiede o dei costi, per cui come diceva Ludovica, andare a vivere in un'altra città, affitto, spese di vitto, alloggio eccetera, ma allo stesso tempo anche come si dice, perdita di potenziale reddito in quanto uno non va a lavorare, quindi viene colpito da questa assenza di politiche di sostegno allo studio? Sono fondamentalmente studenti che vengono da famiglie che hanno difficoltà economiche, e in particolar modo poi gli studenti che vengono da famiglie di immigrati, per cui gli studenti che hanno dei genitori che hanno un background socio-economico svantaggiato, e gli studenti che o sono arrivati in Italia essendo nati altrove, oppure che hanno dei genitori che sono nati altrove e loro sono nati in Italia. E quindi l'istruzione come strumento di inclusione sociale e di integrazione a quel punto meno. A quel punto viene a mancare. Parlavo degli studenti con un background di immigrazione, ricordiamoci che negli ultimi 12 anni, e qui passo a parlare invece che dell'università, della scuola, sono passati dal 5% al 10%, per cui tantissimi ragazzi che in Italia si ritrovano in realtà ad avere un'offerta formativa che è spesso inadeguata. Noi siamo andati a vedere a chiedere agli insegnanti quanto si sentono adeguati a gestire delle classi che sono multilingue e multiculturali, e addirittura un insegnante su quattro dichiara di avere molto bisogno maggiore sostegno per imparare a gestire questo tipo di classi, da una parte per garantire i risultati accademici di questi studenti, dall'altra parte per favorire l'integrazione di questi studenti studenti. E quindi molto da fare anche su quel fronte. Anche in questo caso sarebbe interessante una comparazione tra Italia, che non è all'ultimo posto comunque, però c'è molta strada da fare, e il resto d'Europa. Intanto grazie a Francesca Borgonovi, è analista dell'OCSE, e arrivederci. Arrivederci, grazie mille. E si conclude qui questa puntata di Spunti di Vista. Voglio ringraziare una serie di persone, tutti quelli che mi hanno ispirato, come le mie amiche Sara Spreafico e Lorena. Voglio ringraziare Pietro Lacorte in regia, Silvi Boccaletti e Giovanni Melchiori in redazione, e soprattutto voi che ci avete seguito fino a questo punto. Alla prossima, un grande abbraccio radiofonico da Irene Zerbini.